si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta, 8:19 minuti, staremo insieme sino alle 10, riprendiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi, riprendiamo da dove abbiamo interrotto alle 7:45 circa, cioè dai commenti per quanto riguarda la notizia dell'accordo raggiunto in Europa sul nuovo vertice Juncker, ma anche le condizioni al contorno, quelle che interessano l'Italia, cioè maggiore flessibilità. Non solo l'Italia ma anche gli altri paesi, maggiori flessibilità in cambio di riforme. Cerchiamo di capire, continuare a capire se è una buona notizia per l'Italia, se è una buona notizia per l'Europa, se è una buona notizia forse solo per Matteo Renzi, che era arrivato a questo incontro stretto tra le richieste che venivano dal Parlamento italiano e dall'opinione pubblica di strappare qualcosa a Bruxelles e invece le richieste degli altri paesi nord europei più fedeli alle logiche del rigore. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta, potete commentare quello che sentite, potete chiamarci anche oggi come ogni sabato e domenica per raccontarci che cosa ha reso più bella questa vostra settimana, anche oggi in palio i biglietti e il catalogo per quanto riguarda la mostra dei Pre-Raffaelliti a Torino e di Andy Warhol a Roma. A vostra scelta, poi più avanti i nostri approfondimenti, le nostre buone notizie, ma riprendiamo dai giornali intanto anche per dare qualche altra notizia oltre a quella che riguarda l'Europa. Per esempio il Corriere si occupa anche di queste due notizie: l'addio a Ciro, 20.000 in piazza, tra gli ultra spunta anche Jenny a Carogna, ieri appunto i funerali di Ciro Esposito, il tifoso morto durante la finale Coppa Italia a Roma, cioè ferito il 3 maggio scorso e morto pochi giorni fa a Roma all'ospedale Policlinico Gemelli. Poi l'altra notizia è questa, è una buona notizia: la bolletta del gas cala del 6,3%, vabbè, questo si sottolinea sempre quando aumentano le bollette, però se una volta calano per via dell'andamento, diciamo, delle tariffe internazionali del petrolio e quant'altro, è giusto dirlo, resta invariato il costo della luce. E poi per farvi incavolare un po', il Corriere scrive: il muro dei 25 sindacati sui tagli agli stipendi alla Camera e al Senato, gli ostacoli al limite dei 240.000 euro. Scrive Rico Marro: ricordate il tetto di 240.000 euro lordi alle retribuzioni, già in vigore da maggio per tutti i dirigenti pubblici in virtù del decreto legge 66 del governo, non ricordo più se era Monti o Letta, credo Monti. Alla Camera come al Senato non può essere applicato perché il tetto sia valido anche per i dirigenti del Parlamento che nelle posizioni di vertice guadagnano il doppio. C'è infatti bisogno di un'autonoma decisione delle Camere che arriverà però solo dopo una trattativa con i sindacati, i quali, incredibile ma vero, sono 25, 11 alla Camera per circa 1.400 dipendenti, quindi una sigla ogni 127 lavoratori, e 14 sindacati al Senato per 820 dipendenti, quindi una organizzazione ogni 58 addetti. Fa ridere, ma è straordinario, ma è così. E tanto per avere un'idea di quali siano le categorie di lavoratori di cui stiamo parlando e che dovranno trattare i loro sindacati, credo con le autorità del Parlamento, col governo, prima di far applicare direttamente una norma dello Stato italiano sui limiti allo stipendio dei dirigenti pubblici. Sentite qua, si entra come operatore tecnico alla Camera con 30.000 euro e si finisce con 136.000 euro lordi l'anno di stipendio dopo un po' di anni di carriera. C'è lo stipendio che diventa 5 volte tanto. Credo che non ci sia una carriera al mondo dove si entra con uno stipendio e si esce con 5 volte tanto. Beati loro. Un documentarista o ragioniere alla Camera entra con 38.000 euro e finisce con 240.000 euro lordi. È qua che si dovrebbero cominciare ad applicare le tagliole previste giustamente dal decreto 66 del governo, fino al medico, al traduttore, che finiscono la loro carriera a 358.000 euro lordi. di stipendio, cioè più del Presidente della Repubblica, credo, o quantomeno più di quello che guadagna forse addirittura Obama in America, un medico della Camera, è pazzesco, per arrivare poi a stipendi come quello del Segretario Generale, 406.000 euro. Ecco, questa gente qua, per questi qua non si applicano le norme dello Stato, ma c'è l'autonomia della Camera e del Senato e quindi ci sarà una trattativa a parte. Di questo si occupa oggi anche il Corriere. Invece il Sole 24 Ore ci ricorda un'altra notizia che riguarda gli investitori. Rendite finanziarie, pronte le istruzioni per il prelievo al 26%. Da martedì sale dal 20 al 26% la tassazione sulle rendite finanziarie. L'Agenzia delle Entrate ha emanato ieri i chiarimenti. La nuova aliquota vale per interessi e altri proventi derivati da conti correnti, depositi bancari e postali maturati dal 1 luglio del 2014. E quindi, se volete saperne di più, andate sul Sole 24 Ore, oggi in edicola. Repubblica, con queste altre notizie, sempre sul funerale di Ciro Esposito, la rivincita di Scampia, ciao Ciro nostro eroe, poi salta la visita al Gemelli, ansia per la salute del Papa. Il Papa è molto stanco, ha saltato all'ultimo minuto la programmata visita all'ospedale Gemelli, c'è ansia per la salute di Francesco, ma la Santa Sede smentisce, è colpa del ritmo sostenuto dei suoi impegni. Altra notizia, prima di arrivare ancora ai commenti su Juncker, di Repubblica, è questa: addio al mito dei surgelati, sciolto al sole dai celebrity chef. Da New York a Roma si torna ai fornelli per gusto, salute e risparmio, che secondo me è un'ottima notizia. Sedotti dalle trasmissioni culinarie, italiani e americani paiono decisi a snobbare i piatti pronti congelati. La ricerca di una vita salutista fa invertire la rotta nei consumi americani. Dopo anni di boom del surgelato e dopo 25 anni di crescita, la crisi ha colpito anche qua. Le vendite sono crollate del 12%. Cioè, la notizia è che crollano le vendite dei surgelati e insomma... poi si possono fare tutte le interpretazioni che si vogliono su. In effetti la televisione è piena di show che riguardano la cucina, viene voglia di cucinare anziché di usare surgelati, ma questo è un altro discorso. Va bene, torniamo invece, come detto, ai commenti per quanto riguarda la nomina di Juncker. Allora, Daniel Gross su Repubblica, lui è presidente del Centro Europeo di Studi Politici, è un tedesco laureato in Italia con PhD in America. Mi sembra fuori luogo, perlomeno prematuro, questo ottimismo sulla conseguita flessibilità. Perché tutti parlano di accordo tra stati? C'è solo un'intesa tra il premier italiano e la cancelliera tedesca sul relativo ammorbidimento di alcuni parametri, ma nulla è deciso. Tutto andrà verificato con la nuova commissione. Cioè, da un lato si riconosce che c'è un'intesa tra la Merkel e Renzi, quindi il ruolo di Renzi, dall'altro si dice però occhio, perché questa intesa dovrà essere sponsorizzata dalla prossima Commissione europea. Per il Fatto Quotidiano, la Merkel ingoia Juncker e il premier italiano sotterra Letta per la questione che non è stata accolta la sua candidatura a Presidente del Consiglio. Il ritratto di Juncker, Stefano Feltri, inviato a Bruxelles, dice: nessuno è davvero entusiasta dell'affermazione di Juncker, che ha una lunga lista di difetti che lo rendono l'uomo sbagliato al posto sbagliato. Rappresenta proprio quell'Europa che ha irritato gli elettori. Nel 1984 diventa presidente del piccolo 84, quindi esattamente, aiutatemi, 30 anni fa. Diventa presidente del piccolo paese satellite della Germania, Lussemburgo, nel 95. Viene eletto al Parlamento di Lussemburgo nel 94, nel 95 diventa presidente, contribuisce a trasformare il Lussemburgo in un ricco paradiso fiscale, rifugio di evasori e aziende che vogliono evitare di pagare le tasse. Resta al potere fino al 2013, per 18 anni, quando è costretto a dimettersi per uno scandalo che riguarda i servizi segreti. Poi ci sono le sue abitudini, un po' esasperate dai giornali inglesi, ma con una base di verità: tante sigarette, molto alcol, anche se forse non è vero che fa colazione con il cognac, come ha scritto il Daily Mail. Questo è il curriculum di Juncker, ribadito anche da Libero, che in prima pagina quasi ignora la notizia dell'accordo raggiunto a Bruxelles. Poi all'interno c'è l'articolo: Juncker, il protetto di Berlino, ama il rigore quasi come il vino. e il tono del commento è quasi lo stesso. Leggiamo solo l'inizio. Per Matteo Renzi, bandiera del giovanilismo rampante della rottamazione selvaggia, non deve essere stato facile mandare giù il diktat della Merkel su Jean-Claude Juncker in cambio di un po' di fumo sulla flessibilità. Poi c'è, si ricorda che Juncker è odiato soprattutto dalla stampa britannica, che appunto lo ha dipinto un po' come un ubriacone, anche senza spingersi così oltre. Però è difficile negare che Juncker rappresenti l'essenza più pura dell'ortodossia comunitaria, il volto più genuino dell'euro burocrate, il difensore più massiccio della continuità. 800 24 00 24, facciamo una pausa. Torniamo tra un attimo, parleremo di un appello di sindaci, amministratori locali, sponsorizzato anche dall'intergruppo parlamentare sul gioco d'azzardo, per interrompere le pubblicità delle scommesse ai mondiali di calcio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sulle note di questa La televisione che felicità di Max Pezzali e anche Edoardo Bennato, anche se non si sente, cari ascoltatori, 800 24 00 24 per parlare della richiesta che arriva da 400 sindaci contro gli spot sulle scommesse sportive sui canali Rai in occasione dei mondiali di calcio. Ne parliamo con l'onorevole Lorenzo Basso, buongiorno. Buongiorno. Che è deputato del PD ma è coordinatore dell'intergruppo parlamentare sui temi del gioco d'azzardo. Questa, che almeno per quanto mi riguarda non è una crociata contro il gioco d'azzardo, ma è semmai la richiesta che viene da più parti di regolamentare, mettere dei paletti. È però un tema bipartisan dal punto di vista politico, almeno a livello, diciamo, di amministratori locali, perché questo appello dei sindaci, sono sindaci del PD, sindaci della Lega, sindaci di centrodestra, sindaci di centrosinistra. Perché però questa richiesta che voi fate, di cui anche lei si fa portavoce, riguarda, investe proprio la RAI? Perché voi dite, al di là del tema del gioco d'azzardo, c'è un tema di responsabilità sociale della TV pubblica. Esattamente così. Noi, appunto, io stesso coordino questo intergruppo, che di nuovo è fatto da gruppi politici di tutte le forze. Non siamo per proibire il gioco d'azzardo, ma per regolamentarlo. Dopo 20 anni in cui c'è stato un lasciapassare su tutti i fronti, stiamo cercando di regolamentarlo per contenerlo sul territorio, soprattutto perché lì ci sono i danni maggiori di questa piaga, ma anche come cultura nazionale. Quindi, mentre stiamo cercando di introdurre limitazioni alla pubblicità, vediamo che nelle reti RAI, quindi nelle reti che prendono il canone dato da tutti i cittadini per portare avanti una cultura della nazione, per avere un ruolo anche sociale, e durante eventi sportivi seguiti anche da minorenni, continuano a trasmettere gli spot per il gioco d'azzardo, che dovrebbero essere vietati, tra l'altro, per le fasce e per i programmi seguiti dai minori. Ecco, tra l'altro, a questo proposito, onorevole, ma non si era votato già un emendamento ai primi di febbraio che vietava la pubblicità radiofonica e televisiva sul gioco? Io ricordo. Sì, era un mio emendamento. Purtroppo quell'emendamento fu modificato al Senato, e quindi venne ridotto da un divieto di pubblicità a un divieto nelle fasce protette, appunto, come dicevo prima. E forse, come dire, e quali sono però queste fasce protette? Per queste fasce protette esiste questo divieto? Sì, per queste fasce protette esiste il divieto su tutte le reti televisive e radiofoniche. Sì. E, è evidente che una partita fatta a mezzanotte, come è stata Italia-Inghilterra, sì, non è in fascia protetta. Il tema è il servizio pubblico, può pensare che un evento come la nazionale sia seguita, anche se alle 6 del pomeriggio o a mezzanotte, soltanto da adulti e non da minori. Allora, può esistere una legge che mette un divieto assoluto per le fasce del primo pomeriggio e della tarda mattinata, che sono le fasce dedicate ai minori, ma di fronte a un evento sportivo nazionale, dove c'è anche l'immagine dell'Italia, perché la nazionale italiana nel finale porta avanti i nostri colori, è pensabile che il servizio pubblico non riesca a interpretare, a comprendere che è un evento esposto anche alla visione dei minori. Mm. E c'è però una questione, perché insomma, in effetti bisogna dire che in questo caso, insomma, le scommesse online, le scommesse sportive, cioè, non è che abbiano molto a che fare con i valori dello sport, cioè si usa lo stesso aggettivo sportivo, sono due mondi un po' diversi. Però è un eufemismo, sì. E sicuramente i valori sono un po' diversi. Poi ci sono stati anche casi di cronaca, e ancora forse da scoprire, dove il mondo delle scommesse sportive ha addirittura trascinato il calcio in particolare all'interno di attività illecite, cioè le famose partite truccate. Ora, ecco. Però detto questo, sembra che, cioè, tra gli sponsor delle squadre di calcio, adesso sponsor dei mondiali in TV, eccetera, sembra che siano le aziende più floride, che non se ne possa fare a meno. Uno potrebbe dire, sì, voi parlamentari fate bene a proibire, a dire, però questi sono gli unici che investono, è un mercato che funziona e bisogna lasciarlo fare. Lei cosa risponderebbe a questo? Guardi, purtroppo, come dire, ci sono mercati che funzionano, anche quello del fumo funziona, perché è un mercato che, creando dipendenza nel proprio prodotto, così come l'azzardo, riesce a continuare a vendere, e anche se si aumentano i costi, aumentano i margini, proprio perché la dipendenza che questi prodotti danno porta i consumatori a continuare a giocare, a continuare a fumare. Ma come è stato vietato la pubblicità per il fumo, così per l'azzardo noi iniziamo a vietare la pubblicità, oppure poi si finirà addirittura in una protesta maggiore, ci porterà anche a vietare la possibilità di giocare. Io sono convinto che il proibizionismo non ha mai risolto i problemi. No, però mettere le regole, come dice lei, però, io sono d'accordo e credo che non proibizionismo. Sì. Soprattutto vietare una pubblicità che porta a ad avvicinarsi. Sì, a un mondo, però mi scusi, è chiaro questo, sì, il concetto di evitare la pubblicità, però mi sembra che ci sia un po' di difficoltà poi a ottenerli, i risultati, da parte della politica, perché, mi spiego, c'è stata una proposta di legge popolare firmata da un sacco di comuni, appunto, come dicevo io prima, bipartisan, certo, sindaci, migliaia, adesso questa cosa che avete portato avanti lo stesso, un intergruppo parlamentare bipartisan, nessuno ad alta voce dice di essere favorevole a queste cose, poi quando si passa al voto succede sempre qualcosa, c'è la famosa mano invisibile per cui tutto torna a posto. Queste lobby sono così davvero forti, oppure non c'è un consenso maggioritario, per esempio in Parlamento oggi, per fare questa cosa qua? Ma guardi, queste lobby sono davvero forti, perché per 20 anni sono riusciti a portare leggi sempre più permissive, però qualcosa è cambiato. Io, prima di entrare in Parlamento, ero riuscito a realizzare la prima legge regionale che ha messo dei limiti alla diffusione, poi seguita da in Liguria, poi seguita da quella lombarda, da quella emiliana, e anche in Parlamento sono state approvate, sempre nell'ultimo anno, prima la delega fiscale, e oggi è stata terminato l'esame dello studio della legge contro il gioco d'azzardo patologico in Commissione Affari Sociali. Quindi ci sono e si sta creando anche una maggioranza che vuole contenere questi fenomeni. E è vero però che soltanto negli ultimi 12 mesi c'è stata una maggioranza parlamentare in grado di limitare, quando per molti decenni, forse per interesse, ma anche probabilmente perché non tutti hanno affrontato subito il tema, c'è stato un permissivismo che ha portato all'attuale situazione di una diffusione troppo ampia, con una piaga sociale che è aumentata ogni anno sempre di più. E va bene, grazie per ora all'onorevole Lorenzo Basso. Grazie per voi. Essere stato con noi, per averci raccontato come e perché c'è questa richiesta. Cari ascoltatori, la giriamo anche a voi, 800 24 00 24, di vietare gli spot in televisione, almeno sulla RAI, alle scommesse sportive durante i mondiali di calcio. L'Italia nel frattempo è uscita, quindi un altro Italia-Inghilterra preceduto da spot di quel tipo non si ripeterà, non so se purtroppo per fortuna. Però insomma, questa è la richiesta. 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo. si può fare. Cronache da un paese migliore. No more pretending. E buongiorno anche a Carlo Gabardini. Buongiorno, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Carlo, 8:45, allora. Come stai? Tutto bene, bene, tutto bene, siamo qua ancora per... No, è la penultima puntata. È la penultima puntata. Infatti, questo... io sono triste. Non facciamoci, questo, come dire, invadere da un clima di malinconia, di mestizia, no, di tristezza, di rassegnazione, di desolazione, no. Stai cercando di dire che forse sarà confermato anche per l'anno prossimo? Non si sa, lo leggo sulla Gazzetta d'estate, immagino sì, così. Il mercato dei conduttori. No, vabbè, intanto quest'estate ad agosto ci saremo. Esattamente. Nell'orario della Zanzara, dalle 18 alle 20 e 30 o 18 e 30, 21, non ho capito bene, non importa. Beh, però intanto è importante che ci sarà, si può fare. Ci sarà, diciamo, si può fare. Ci faranno magari delle novità. Essere io, no, tu ci sarai sicuro. E io dipende, è una cosa che dovevamo ancora capire. Ma lo dici così in diretta che non ci sarai? No, è una cosa che dobbiamo ancora decidere. È semplicemente questione di altri impegni che si sono infilati in mezzo. La farei molto molto volentieri, visto che è stato il mio debutto in realtà qui l'anno scorso ad agosto, quando mi hai chiesto per la prima volta. Abbiamo iniziato per caso, per esatto, gioco. Esattamente. Quindi poi diciamo, se un agosto impegni, riesco anche a andare via due giorni, non è male. No, ma non è per quello comunque. Carlo, troppi impegni, esatto. Anche questa settimana ho letto i tuoi tweet, è la settimana del Gay Pride, insomma, esattamente. Andate avanti dell'Onda Pride, anzi. L'Onda Pride. Infatti adesso spiegherò brevemente questa questione, perché in realtà ci si chiede sempre come funziona questo Gay Pride, a parte che non bisogna chiamarlo Gay Pride, ma appunto a Milano si chiama Milano Pride, perché sennò le lesbiche si arrabbiano, quindi la parola gay ha già dei problemi di per sé. Però spieghiamo questa cosa, perché in realtà c'è stato il cambio quest'anno, è di pensare appunto di fare un'onda Pride e quindi di non fare semplicemente una parata in un'unica città. C'è stata Roma che ha fatto il Roma Pride il 7 giugno, del quale io ero il testimonial e ce lo ricordiamo perché ne abbiamo già parlato qui, e invece la settimana dell'onda Pride è questa, esattamente questa che finisce con oggi. Ed è importante dirlo, perché in realtà si dice che è una settimana perché appunto tutte le critiche che vengono fatte di solito al Pride, che uno dice vabbè, ma che cosa serve in un giorno fare la parata, i carri, vi vestite... Che è successo? È un attacco omofobo della regia, direi. Esattamente. E in realtà non è così, non è solo la parata, appunto. Intanto lo diciamo, il Pride è sicuramente anche una protesta, ed è importante questo ricordarlo, soprattutto per chi critica e dice ci sono solo i carri, siete mezzi nudi sui carri e la musica è molto alta. Va anche detto che diciamo i metodi della protesta li scelgono le persone che protestano e non coloro che negano i diritti a queste persone. Però al di là di questo è importante capire che durante la settimana del Pride ci sono un sacco di altri eventi, non c'è solamente la parata finale, che finisce invece sabato, appunto oggi 28 giugno. Ed è anche un caso interessante, perché il 28 giugno è la data esatta perché si festeggia il Pride. Sono i cosiddetti moti di Stonewall, che il 28 giugno del 1969 negli Stati Uniti ci furono dei violenti scontri fra gli omosessuali e la polizia di New York in un bar, appunto Stonewall Inn. Momento Vicky Gabardini. Vabbè, è importante per capirlo, perché in realtà tutto iniziò da questi moti. Anzi, leggenda vuole che fu la transessuale Silvia Rivera a iniziare questa battaglia lanciando una bottiglia contro la polizia, che poi in realtà questa bottiglia, nella leggenda o forse nella realtà, divenne un paio di scarpe con il tacco a spillo, e da questo iniziarono i moti, e quindi nacque il movimento LGBT esattamente il 28 giugno. Quindi è sempre di sabato la parata del Gay Pride, è un po' un caso che proprio quest'anno è esattamente il 28 giugno che cade l'anniversario. Il fatto che ci siano un sacco di eventi in un sacco di città, perché in più quest'anno il Pride appunto non è in un'unica città, ma c'è il Pride di Alghero, Bologna, Catania, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Torino e Venezia sono i Pride. Poi in realtà sono due Pride che saranno a luglio, e sarà a Reggio Calabria per la prima volta in Calabria, poi a Siracusa il 5 luglio. Ma la cosa importante è ricordare che appunto questa settimana c'è un sacco di eventi, e ne sono testimone perché mi hanno invitato a un sacco di questi eventi, e quindi per esempio tre giorni fa ho presentato con il console americano Kyle Scott qui a Milano. È troppo importante, Carlo, guarda, non vai più bene per questo programma, cioè devi salire, devi andare da un'altra, in un programma più serio. Io sono felicissimo, sono felicissimo di essere il tuo stagista. Senti, ma con il console e Marilisa D'Amico, costituzionalista, ed è stato un incontro bellissimo parlando di diritti. Però mi dicevi proprio, scusami, prego, che questa cosa che ci sono tanti gay pride in tante città è importante, anziché fare un'unica manifestazione. Ma è importante anche un po', perché il gay pride è anche un modo, diciamo, per contarsi, e quindi in questo senso andrebbe bene anche un unico pride nazionale tutti insieme. Però è anche un fatto di mostrarsi all'interno della propria città. Io penso che sia molto diverso se tu sei un ragazzo di Lecce piuttosto che di Alghero, piuttosto che di Venezia. Cioè, invece di andare in piazza nella tua città, nella tua città, dire sono qui, io sono questa persona, e quindi accettatemi per quello che sono. A volte è più facile, che tra l'altro è una anche delle questioni di un sacco di persone che vanno a studiare in un'altra città, perché nella propria città, diciamo, i diritti omosessuali non sono tanto tutelati, quindi uno va via, oppure anche un fatto di non mostrarsi con la propria famiglia. Quindi questa cosa posso dire una cosa. 800 24 00 24, cari ascoltatori, se per qualche motivo manifesterete anche voi o parteciperete a un gay pride, ma però magari non siete d'accordo con Gabardini, che pure è testimonia, chiamateci e diteci. Certo, perché, giustissimo. Molto giusto. E l'altro ieri invece ero a Palermo a fare un bellissimo incontro su comunicazione LGBT, quindi parlando anche del caso Barilla, del caso Findus, diciamo riprendendo un po' il filo di quando sono andato a Perugia al Festival Internazionale del Giornalismo a parlare appunto insieme ad Anna Paola Concia della questione della comunicazione. E ieri invece presentavo insieme a Pierfrancesco Maiorino, l'assessore che abbiamo sentito più volte delle politiche sociali del Comune di Milano, sempre con la costituzionalista Marilisa D'Amico, Flavio Romani, il presidente nazionale di Arcigay, e Daniele Viotti, che è un nostro europarlamentare neoeletto. E discutevamo del fatto della diversità tra il percepito della popolazione, che è molto più avanti dei nostri politici, cioè ma mica solo sul tema dei gay, su quante cose. Però io ho iniziato parlando esattamente di questo. Non penso che sia solamente nella questione omosessuale, è che molto spesso la popolazione appunto è molto più avanti, nel senso che è molto più accettata l'omosessualità di quanto non lo sia all'interno invece del nostro partito. Portavo un esempio sui video che sono sul mio canale di YouTube, la differenza fra i like e i dislike, come mi hanno spiegato ieri, che si chiamano, è 1 a 100. Ecco, se ci fossero questi numeri anche in Parlamento, la legge che è stata annunciata da Matteo Renzi, che a settembre inizierà ad essere discussa sui matrimoni o le cosiddette Lebenspartnerschaft, per dirla alla tedesca, perché è un modo di unioni, lo sai pronunciare molto bene, avendo studiato tedesco, sono le unioni fra persone dello stesso sesso. Sì. È questo. Senti, facciamo così: se hai qualche notizia altra ce la dici dopo. Adesso vogliamo dedicare un po' di tempo anche agli ascoltatori, quindi già che abbiamo Pino da Milano lo sentiamo subito. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Io telefonavo per riferirmi al precedente intervento dell'onorevole Basso a proposito del gioco d'azzardo. Sì. Ritengo, come cittadino e padre di famiglia, vedendo tutti i giorni quanta gente, soprattutto quella più disagiata, scommette sulla possibilità di cambiare la propria vita spendendo decine e decine di euro, che lo Stato in realtà dovrebbe non solo proteggere dalla pubblicità televisiva, ma addirittura, secondo me, dovrebbe fare una contropubblicità per dimostrare, spiegare quanto sia inutile sperperare quei soldi che si hanno con questo sogno. C'è una sorta di pubblicità progresso, lei dice. Assolutamente sì. Tenga presente che tutti questi soldi che vengono investiti per questo gioco vanno in realtà in un contesto totalmente improduttivo. La maggior parte è fatta per arrotondare le tasse dello Stato, ma sarebbero tutti soldi che, se la gente non investisse in questo gioco, probabilmente verrebbero consumati in consumi non normali. Sicuramente ripartire l'Italia. Scusi, Pino, è una cosa, voglio dire, sicuramente uno dei motivi per cui poi non ne abbiamo parlato con l'onorevole Basso, ne abbiamo parlato altre volte, uno dei motivi per cui non si riesce a porre un freno all'azzardo è che lo Stato ci guadagna, e quindi gli stessi decisori in Parlamento, che dovrebbero appunto decidere una limitazione di questo non lo fanno, probabilmente perché bisognerebbe trovare delle coperture alternative a queste entrate fiscali. Poi è il motivo per cui negli anni 90 si sono liberalizzate tutti i giochi e sono esplose le scommesse. Va bene, Pino, voleva aggiungere qualcosa da Milano? Voleva raccontarci cosa ha reso bella la sua settimana, per esempio? Ah, la mia settimana questa volta è stata molto bella perché sono riuscito finalmente a stare un pochino a casa. Il mio lavoro mi porta spesso fuori casa e quindi si è goduto stare qualche giorno in famiglia. La famiglia, benissimo, anche questa è una buona notizia. Grazie Pino. Grazie mille. Bene, niente, ci fermiamo, facciamo il giornale radio, poi torniamo, riprendiamo i nostri temi di discussione. 800 24 00 24. Siamo partiti da questa richiesta dei sindaci di interrompere gli spot sulle scommesse sportive in TV, almeno alla Rai, poi tutti i vari Gay Pride, certo, che si svolgeranno tra oggi e domani, annunciati da Gabardini. Oggi. La parata è oggi. In realtà, Gay Pride, come dicevo, è tutta la settimana con un sacco di eventi che ci sono. Va bene, ci fermiamo. Giornale radio, a tra poco. Sentirsi con Papa senza santi da pregare, si può fare. Ed eccoci qua, 9-8 minuti, di nuovo in diretta. Cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ricordiamo che potete interagire con noi in tempo reale, oltre che all'SMS 349-238-6666, anche al nostro account Twitter del programma, chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi e il mio chiocciola Carlo Gabardini. Oggi è la penultima puntata, devo dire che forse per domani almeno una volta devo essere in grado di dire io il numero di telefono, perché sono stagista ma mi devo emancipare. Beh, il numero di telefono non l'ho mai detto. Dobbiamo mettere il cartello, esatto, però anziché dalla parte mia, cioè della regia verso di me, dalla parte del vetro verso di te. Esattamente, sennò... così svegliamo anche che in realtà noi ci guardiamo in faccia, e questo è il motivo perché io sono uno stagista e quindi Alessio mi fa dei segni e mi indica, diciamo, quello che devo fare. No, fa... così, dalle facce io capisco se sto sbagliando tutto, se sto dicendo una cosa giusta, insomma è lui tutto, esatto. O quasi tutto, insomma, dipende. È il cosiddetto regista in campo, diciamo, Alessio Maurizi. Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io chiamo per il tema della pubblicità, sì, del gioco, anche per un minimo di contraddittorio essendo un addetto ai lavori. Sì. Volevo dire su questo tema che ci si dimentica spesso rispetto al tema della, sì, pubblicità. È un tema molto delicato perché ovviamente sappiamo quanto il gioco rappresenti anche ovviamente un rischio se abusato, e quindi tutti gli operatori sono interessati a raccontare questo ai consumatori. Però ci dimentichiamo che in Italia c'è un mercato non autorizzato di dimensioni macroscopiche. Si stima che nelle scommesse sportive esistano tante agenzie non autorizzate quante sono quelle autorizzate. C'è un'offerta di gioco online proveniente dall'estero molto molto forte, quindi un divieto alla pubblicità non farebbe altro che portare gioco su questi canali. Quindi da una... Perché, mi scusi, lei fa questo automatismo, Alessandro, tra il divieto alla pubblicità e l'incremento delle scommesse clandestine? Cosa? Perché? E assolutamente non lo vedo come una cosa così lineare. Forse perché le scommesse clandestine, diciamo, non possono fare pubblicità, diciamo che la Camorra di solito non fa delle pubblicità su Rai 1 per il gioco d'azzardo. Io non parlo di scommesse clandestine, io parlo di scommesse fatte con società estere che non hanno autorizzazione in Italia e che quindi non possono operare in Italia. Non potendo operare sulla carta, non devono rispettare norme come la Balduzzi eccetera, e quindi nei paesi, nei comuni dove per esempio le sale slot vengono inibite, esistono, sì, centri di raccolta scommesse che hanno dei totem del tutto simili alle slot, che invece possono aprire, operare, fare volantinaggio, perché i comuni non... Va bene, ho capito. Motivo in più, per quanto mi riguarda, per regolamentarle tutte, non per diciamo abbassare le dighe. Questo per quanto mi riguarda, Alessandro. Però il concetto è, sì, interessante, mi sembra, voglio dire, comunque almeno se qualcuno decide di giocare, almeno che paghi le tasse in Italia. Insomma, se gli italiani decidono di giocare, perlomeno rovinarsi con i soldi, perlomeno che una parte di quei soldi rimanga in Italia, invece che addirittura di rovinarsi ugualmente, ma giocando per per esempio su un sito straniero. Questo è quello che sta succedendo in questi anni, di tasse in Italia se ne pagano sempre meno per via della diffusione del gioco online, questo è vero. In che senso se ne pagano sempre meno? Meno perché è un dato di fatto che le entrate fiscali legate al gioco sono in diminuzione rispetto agli anni d'oro, questi sono proprio i dati, e questo è, in parte deriva dal fatto che le aliquote sul web sono più basse di quelle che si pagano sui giochi tradizionali, e poi che su web qualcosa sfugge come diceva l'ascoltatore. Sì, questo è vero. Al danno si aggiunge la beffa. Esatto. Grazie Alessandro. Grazie. Luciano da Napoli, buongiorno. Questo ciao, ce l'ha buongiorno. Con te, secondo buongiorno me. Tutti. Sì? Buongiorno. Salve. Salve. Allora, io chiamavo per una considerazione sui gay pride. Sì. Un dubbio che ho sempre avuto è che se io avessi, faccio una ipotesi, un figlio omosessuale, premesso che ho tantissimi amici, carissimi fratelli omosessuali, quello che mi inquieterebbe di più non sarebbe l'omosessualità di mio figlio, ma che mio figlio diventasse una parodia di se stesso, come rappresentando, diciamo, su un carro, perché mi sembra a volte che le rappresentazioni, diciamo, fatte nei gay pride sono estremamente forti, volutamente forti, però che rappresentano tutto tranne che la normalità, per cui sì. Mi sentirei più a Dio saggio, a vedere mio figlio che sta facendo una parodia di se stesso, che non il fatto che lui è normalmente omosessuale. Certo. Perché alla fine questa rappresentazione comunichi tutto tranne che la normalità di essere gay. Guardi, posso dirle, concordo molto con quello che sta dicendo. Mi piacerebbe dirle, vada a vederlo un gay pride, perché in realtà le confesso che molto è anche la stampa che ovviamente decide di fare solamente quel tipo di fotografie. I carri, certo che in alcune città ci sono, in altri no. Per esempio a Milano si è deciso di farlo senza carri, anche per una questione di ecosostenibilità, quindi qua si può fare, lo diciamo molto volentieri. Però ovviamente non si tratta di fare la parodia di se stessi, si tratta, diciamo, di mostrarsi per quello che si è. Quindi non è che se uno invece normalmente è un omosessuale che va a lavorare in giacca e cravatta, non è che per forza al Pride si deve vestire da donna. Vorrei che fosse chiaro, insomma, io non mi vesto da donna al Pride, non mi sono mai vestito da donna perché non fa parte di me il fatto di vestirmi da donna. Quindi non è che fare il Pride è un obbligo di vestirsi in maniera eccentrica e andare su un carro. È parte, diciamo, della protesta anche il fatto di rendersi molto visibili. Luciano, fatto? Diciamo che il problema che facevo era quello della comunicazione, sì, poi all'esterno. Giustissimo, cioè, guardi, parlo di questo. Quello che passa come meccanismo è di totale normalità, quindi al di là di quello che può essere la scelta del singolo. Giusto. Però il meccanismo sulla collettività, proprio dal punto di vista della percezione, è quello forse di una però normalità. Luciano, ho capito, sì, è chiaro quello che lei dice, probabilmente ha anche ragione, forse però ha ragione anche Gabardini, è più un problema delle foto che vengono riportate dalla stampa, i servizi che vengono fatti, dove chiaramente fa più colore se c'è una drag queen vestita in un certo modo con un collare piume di struzzo intorno al collo, che magari dietro centinaia di persone che sfilano normalissime, che però ci sono. Sì, ma soprattutto io voglio dire che non siamo nemmeno su due posizioni diverse, perché io invece concordo in pieno con quello che sta dicendo, nel senso, sì, che è proprio mostrare sia la normalità dell'essere gay sia la gioia dell'essere gay. Quindi da un lato c'è anche il fatto di sorridere, secondo me, e di essere felici, cioè di mostrare che essere gay è bellissimo, ma giustamente c'è anche la questione della normalità, e ribadisco che è fondamentale e che il Pride è pieno di normalità. In più, voglio dire, io ieri ero con l'assessore, piuttosto che l'altro ieri con il console generale americano. Ti è piaciuta la visita, no, col console? Molto. Già due volte che lo, no, dici, quello, console. Sì, no, quello che sto dicendo che erano eventi estremamente normali, se ci interessa questa chi parola. Chi te l'avrebbe detto a te che incontravi il console americano a Milano? Esattamente. Solo un anno esattamente fa. Vabbè, potevo incontrarlo per il Milano Film Festival. Per qualcos'altro. Esatto. 800 24 00 24, tra poco continuiamo a dialogare con voi ascoltatori, tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Chi mangia lo spaghettino con il pomodorino e col peperoncino, pure se brucia un po'. Chi mangia la mozzarella, chi mangia la pappardella, chi mangia la tagliatella, pure se grassa un po'. Davanti a una mangiata e una bevuta, a tavola l'Italia è tutta unita. Buon appetito, Valerio Marcantù. Se io ti dicessi andiamo in un ristorantino che conosco io, dove pensano tutti i prodotti della Terra dei Fuochi, tu cosa diresti? Mi fermo all'antipasto. Che acquolina in no, bocca. No, lo dico come battuta, ovviamente, perché invece perché conoscendo invece... la questione. Non sapendo niente, probabilmente direi va bene, speriamo che l'acqua sia in bottiglia, ecco, diciamo che l'acqua non venga da qui, però invece esiste però questo ristorante, esiste a Napoli ed è un ristorante, si chiama Gold Blonde, e ha deciso proprio di approvvigionarsi per quanto riguarda le materie prime dalla Terra dei Fuochi, però tenetevi forte, sono tutti prodotti controllati, sani al 100%. Non volevo iniziare con della contropubblicità, siccome sapevo il fatto che sono controllati, che non bisogna spaventarsi. Ma la provocazione è una scelta che fa discutere, e noi ne parliamo con il titolare di questo ristorante, Giuseppe Lanza. Buongiorno. Buongiorno. Voi siete, intanto siete un ristorante, siete anche una pizzeria, ma siete anche già un birrificio? Un birrificio artigianale, sì. Artigianale, quindi avete, diciamo, una tradizione di chilometro zero, almeno per quanto riguarda la birra. Producete la birra lì proprio dove poi la vendete. E avete fatto questa scelta, una scelta apparentemente in controtendenza. Perché? Perché, ma diciamo che è stata una scelta emozionale inizialmente. Qualche mese fa c'è stato un grosso clamore su questo problema della Terra dei Fuochi, e ovviamente un problema che esiste, che coinvolge tante persone, sono anche dei dramma, e vedevamo che nel nostro ristorante i nostri clienti ci chiedevano la provenienza dei prodotti che mangiavano, qualche volta la mozzarella tornava indietro e non veniva mangiata, e così via. In più i nostri fornitori ci assicuravano che i prodotti non erano del posto, ma venivano dalla Sicilia, da altri posti. Cioè, quindi il paradosso era che i produttori, cioè i fornitori non vi davano più i prodotti locali, ma la gente, esatto, per via di questa cosa della Terra dei Fuochi. E però la gente aveva paura lo stesso e vi rimandava indietro le mozzarelle, le cose, eccetera. C'era molta paura. C'era molta paura. Per cui abbiamo fatto questa scelta. La paura però, scusi, è legittima, perché in effetti qualcosa che non va nella Terra dei Fuochi c'è. Sì, no, la paura è legittima. Il problema è che però nella Terra dei Fuochi non c'è soltanto chi ha inquinato, ha creato tanti disastri, ma c'è tanta brava gente, tanti contadini onesti, per bene, che si alzano alle 4 del mattino per coltivare la terra, e quindi noi abbiamo fatto un'alleanza fra persone per bene, coinvolgendo Slow Food, l'università, e insieme abbiamo fatto questo protocollo di analisi, e abbiamo un prodotto che è sicuramente un prodotto eccezionale, insomma. Quindi praticamente in che senso un protocollo di analisi? Cioè i prodotti di cui vi fornite voi, i prodotti che acquistate voi, sono controllati? Sono controllati, sì. Se lei viene da noi, non so, pigliano insalata, sul nostro menu c'è una cartina geografica dove è indicata l'insalata da che parte proviene. Sì. Dopodiché si va sul nostro sito, si collega con l'università e vede le analisi fatte su quel prodotto. Ecco, questo sarebbe bello magari che si facesse in tutti i ristoranti, non so come dire. Cioè, in Italia, la patria del mangiar bene, no? E quindi anche dei prodotti naturali, eccetera. Certo. Questa cosa che fate voi per necessità, perché vivete in una zona che è stata inquinata, quindi per distinguere il buono dal cattivo, sarebbe una cosa bella magari da fare in generale. È bella l'idea che c'è la foto del coltivatore sul vostro sito con l'insalata in mano. Sì, è molto bello, soprattutto, mi scusi, io sono lo stupido dei due, non sono il giornalista, però mi sembra molto bello questo progetto, perché è un modo molto preciso quasi di farsi da garante per dire nella Terra dei Fuochi non è tutto da buttare. Non questa cosa buttare. Mi sembra molto... Il garante nostro è Slow Food, che fa da coordinatore di questo progetto. Dopodiché c'è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, e c'è la Federico II, che è l'Università di Napoli, la Facoltà di Agraria. Direi che siete molto protetti. Siete messi bene. Una cosa però, chi è che paga poi? Perché credo che far questi controlli abbia dei costi. Ti stai dicendo, non è che poi un antipasto costa 49 euro, perché è ipercontrollato. No, l'antipasto, allora, il menù è lo stesso menù che c'era fino a un mese fa. con gli stessi pezzi, tutto identico. La differenza è che adesso dietro al menù c'è una cartina geografica con indicato i luoghi di provenienza dei prodotti che arrivano a tavola. Certo. Quando lei sceglie l'insalata piuttosto che non lo so, la pappacella napoletana, va a vedere sul nostro sito la pappacella da dove proviene, vede la foto dell'agricoltore, vede l'analisi, l'indirizzo dell'agricoltore, il numero di telefono e tutto quanto. Ah, è quasi una delazione, direi. Cioè, addirittura foto, numero di telefono, anche la foto di profilo fate. Sì, sì, cioè, sì. Questi poveri agricoltori non possono stare un attimo in pace, ricevono di continuo telefonate per essere aggiornati. Ma, però è il contrario dell'agonia, è proprio il contrario, sì, perché è l'agonia positiva. Nel senso di dire, questo è l'agricoltore, sì, ottimo. Sì. Ma senta, ma il cliente Lanza come reagisce a questa vostra iniziativa? No, i clienti sono contenti? Sono soddisfatti, non torna più niente indietro, e comunque si è creato sicuramente tutto un clima favorevole di sostegno a questa iniziativa. Siamo tutti quanti contenti. Poi fra l'altro, come ci siamo conosciuti, ci siamo raggruppati. È gratificante anche il fatto di vedere queste persone, che poi veramente questi contadini sono brava gente per bene, che lavora sul serio, e poi sono disponibili, vengono anche al ristorante a parlare con noi e con i clienti. Insomma, la vostra è una sfida, e la sfida è quella di dire, controllando, monitorando i prodotti, facendo le giuste analisi, si può, diciamo, non si rischia niente, e si può andare a attingere anche da zone che hanno una brutta fama, come la Terra dei Fuochi. Esatto, e dove però esistono anche dei prodotti che sono eccellenti, che sono dei sapori di un tempo. Fra l'altro Solo Food ha i suoi presidi, sono dei prodotti, diciamo, in via di estinzione, fra virgolette, che non vengono più coltivati perché non sono redditizi. Solo Food sostiene questi progetti, e noi nel ristorante usiamo questi presidi Solo Food, non il cannellino di Acerra, il fagiolo di Acerra, la porcella napoletana, l'antico pomodoro di Napoli e così via, prodotti che non si coltivano più perché non sono redditizi per l'industria, per il commercio, e che Solo Food sostiene. Noi utilizziamo questi prodotti. E va bene, insomma, intanto voglio chiedere agli ascoltatori cosa ne pensano, 800 24 00 24, e poi Lanza, insomma, complimenti per questa iniziativa. Grazie. A questo punto gli altri ristoratori che non fanno come voi, magari perché non hanno spirito di iniziativa, oppure perché qualcosa da nascondere c'è, ci sarà pure qualcuno che si continua a approvvigionarsi a zone dove invece, se si facesse qualche controllo, verrebbero fuori le mozzarelle blu. Io spero che altri ristoratori, altri agricoltori seguano l'esempio, insomma, facciamo qualcosa. La mia idea è che comunque ognuno di noi ha un minimo di responsabilità sociale, anche se io però non ho capito bene i costi. Alla fine i costi li sosteniamo noi, li sostenete tutti voi, sì, noi ci state dentro. Forse la cosa interessante è che un altro ristorante, magari più piccolo, magari con più difficoltà, però ha le foto col numero di telefono dei, sì, vostri produttori, e può decidere di approvvigionarsi dagli anche stessi, lui, no? Dal vostro produttore, certo, e di modo, certo, che voi facciate la garante. Si crea poi magari una filiera, non avranno la foto sul menù, perché insomma l'idea è vostra, se no poi diventa è comunque noi, sempre commercio, sarebbe una gioia. Va bene, grazie. È anche un modo per aiutare poi questa gente, che giusto, è, giusto, sono persone eccezionali. Grazie Giuseppe Lanza. Noi conosciamo famiglie, sì, che lavorano la terra, saltano alle 4 del mattino, alle 9 ci consegnano i prodotti, purché siamo buoni, purché siamo buoni. Gente per bene, per davvero. Grazie, buona mille, giornata. Buona giornata. Il titolare, grazie, della Gold Blonde da Napoli. Insomma, se crederci, sì, beh, c'è Slow Food, c'è certo, l'università, certo che credo, c'è assolutamente, assolutamente. Bisogna capire se poi questi produttori, perché di solito sono piccoli produttori, se riescono a rifornire tutti i ristoranti tutti della zona, o poi qualcuno può anche andare a rifornirsi, perché mi sembra molto meglio fare questo piuttosto che dire non possiamo comprare i nostri prodotti, quindi io ristoratore compro il prodotto di qualcosa coltivato in Emilia, e quello sarebbe sbagliato perché hai il doppio danno in qualche modo, nel senso che non ti occupi del tuo vicino di casa, che poi tra l'altro è quello che verrà a mangiare nel tuo ristorante, quindi a un certo punto lui non avrà più soldi per andare a mangiare nel tuo ristorante. I controlli tagliano la testa al toro, perché magari importi dall'Emilia, da una zona dove sono stati usati troppi pesticidi, dove ci sono altri agenti inquinanti, perché non ci sono solo a Napoli o nella Terra dei Fuochi, e ti ritrovi con gli stessi problemi. Bravi. Certo. Dicevo, chissà se c'è da fidarci, nel senso che noi non ci siamo stati lì. C'è da fidarsi, provato. Diciamo, cioè, di sicuro. Sulla parola, sì. Vabbè, sì, sì. Ma no, che sulla parola, dovremmo università, Slow Food. No, tutto. Capito, ma dovremmo girare l'Italia per vedere come. Stavi cercando di chiedere a Radio 24 di mandarci in tournée quest'estate per tutti i ristoranti, diciamo, garantiti. Io vengo volentieri. Un posto nel quale avrei voluto essere in tournée è il Festival del giornalismo ambientale Fin Green, che si svolge a Taranto. Salutiamo Alessio Arconzio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Che è uno dei promotori di questa iniziativa. Un festival, è la prima edizione, proprio a Taranto, perché tanto per restare in tema, insomma, se la Terra dei Fuochi è il simbolo del, insomma, dei rischi per la nostra salute che derivano dai prodotti alimentari, dalla contraffazione alimentare e dagli inquinanti interrati in quella zona, ecco, Taranto è il simbolo di che cosa, Alessio? Sì, Taranto è un po' il simbolo di tante cose, principalmente il simbolo dell'inquinamento, il simbolo un po' delle fabbriche, della città fabbrica. Tra l'altro, ascoltavo il ristoratore prima, oggi tra le altre cose abbiamo in programma anche un panel di discussione proprio per l'appunto sulla Terra dei Fuochi, con dei giornalisti che si sono occupati di questo tema, e un medico, Antonio Giordano, che medico oncologo, che ha coniato la parola proprio biocidio, che è quella correlazione che ci sta fra le terre inquinate e le morti, le malattie che ne derivano anche da tutto ciò. Dunque, un festival del giornalismo esiste già a Perugia, voi fate un festival del giornalismo ambientale, come dire, una corrente del giornalismo che è molto in crescita. Noi stessi con il nostro gioco Inviati Cercasi ne abbiamo scovato, certo. Abbiamo parlato e abbiamo scoperto che c'è davvero un mondo molto, molto grande, veramente in crescita, sia di utenti che hanno voglia di avere informazioni per quanto riguarda, diciamo, il nostro ambiente, che è sempre meno una, vuol dire, una cosa bella ma da giardino, ma è una cosa che riguarda le nostre vite, sia per quanto riguarda proprio gli aspiranti giornalisti. Qual è il mondo che volete raccontare, Alessio? Sì, in realtà è proprio così. Poi, facendo solamente un passaggio su anche la tentazione dei festival che ci sono stati oramai negli ultimi, proprio per questo desiderio di informazione molto forte, sono cresciuti di numero notevolmente festival specializzati di giornalismo. In realtà il nostro è un festival di giornalismo, ma anche dell'ecosostenibilità, perché abbiamo molti momenti di formazione per i giornalisti, a partire anche da come strutturare ad esempio un'inchiesta ambientale. Abbiamo fatto dei panel anche il primo giorno per fornire idonee indicazioni anche sul quadro della legislazione ambientale, che è in continuo mutamento anche per gli interventi governativi e normativi che ci sono stati su questo. Uno esempio sull'ILVA, tutti i decreti, molto spesso anche i giornalisti stessi hanno avuto difficoltà a capire e a comprendere cosa realmente si andava a fare. In realtà poi noi abbiamo previsto tutta una serie di cose, perché pensiamo che anche per come si sono modificati i mezzi di informazione, no? Potenzialmente al giorno d'oggi tutti sono giornalisti, i giornali, la carta stampata anche tradizionale, così come i mezzi di informazione tradizionali, sono entrati un po' in crisi, e questo ha prodotto anche delle distorsioni dell'informazione, perché molto spesso è l'ambiente, ne è una prova, no? Si arriva facilmente al catastrofismo, all'allarmismo, e quindi anche fenomeni che andrebbero spiegati in termini precisi scientifici vengono affrontati molto spesso con gli strumenti. Cioè, voi dite, insomma, il giornalismo partecipato, il fenomeno dei blog, del microblogging, eccetera, va benissimo come innovazione, però attenzione, perché quando si parla di ambiente, per esempio, c'è bisogno anche di avere un bagaglio di conoscenze, di documentazioni, cose che non sono alla portata magari del primo blogger qualunque, bisogna cominciare a fare qualche distinzione. E qui qui diciamo arrivate voi anche come guida forse, no? Sì, esattamente, beh, non abbiamo questa aspirazione perché poi abbiamo avuto la fortuna di ricevere molto supporto anche in giro per l'Italia e per fortuna molti giornalisti, anche tecnici dell'informazione, ma non solo, diciamo esperti in generale, si sono offerti di essere parte di questa prima edizione del festival. In realtà poi ci sono delle cose che hanno assunto un carattere notevole, ad esempio, che ne so, mi viene in mente il cambiamento climatico, no? Da un lato sembra che l'effetto serra non esista più, ad esempio, per come lo narrano alcuni giornali, dall'altro questo fenomeno un po' diffuso anche che c'è nella rete porta a teorie a volte strampalate, ma che diventano molto spesso dominanti, diciamo, no? Questo anche per l'esigenza di trovare a volte una teoria anche del complotto, individuare responsabili. Quindi un po' quello che ci proponiamo noi è di mettere al centro dell'informazione anche le specializzazioni che ci stanno, no? E soprattutto anche nel nostro paese le risorse che ci sono. E qui si aprirebbe un altro capitolo importante per quanto riguarda le risorse dell'editoria e i finanziamenti, che non siano più finanziamenti pubblici magari, ma che siano risorse sane, positive, investimenti da parte di editori che credono in questo mestiere. Certo che su quello che dicevi tu, cioè sull'allarmismo piuttosto che sulle teorie complottiste eccetera, i social network giocano un ruolo perché amplificano molto queste cose, cioè, a volte per così voglia di mettere in campo un po' di ironia, altre volte proprio perché ci si casca, e questo è un aspetto un po', forse un po' negativo dei social network. Di beh, cui però anche Gabardini è un sì, però secondo me bisogna anche ricordarsi che comunque il social network è un mezzo, quindi poi sì, all'interno del quello mezzo passa, sì. Ognuno lo usa come vuole, un po' la vecchia questione, non so come dire, non è che siccome Hitler ha scritto dei libri allora bisogna vietare l'editoria, quindi il fatto che ci sia qualcuno che usa male un mezzo non vuol dire che questo dica che il mezzo sia negativo, quindi io sono assolutamente a favore dei social network e di tutto. Alessio Arconzo, noi intanto vabbè, ci salutiamo, se vuoi ricordare ancora un appuntamento, Festival sì, Taranto Film Green 26-29 sì. giugno, una cosa che ti sta particolarmente a cuore. Sì, oggi abbiamo una giornata particolarmente importante perché ci raggiungerà, perché abbiamo un ospite internazionale, perché ci raggiungerà dall'Argentina e tanto già qui a Taranto il regista Pino Solanas, che è stato anche Palma d'Oro a Cannes col film Sur, che presenterà il suo ultimo documentario che è La guerra del fracking. Il fracking è un argomento che è all'ordine del giorno anche per via di tutte altre questioni anche geopolitiche, perché è una tecnica di fratturazione idratica per l'estrazione del gas, il cosiddetto gas shale, e potrebbe comportare notevoli rischi non solo per le economie globali ma anche per l'ambiente stesso, perché questa tecnica produce la fratturazione delle rocce e quindi l'inquinamento delle falde e quant'altro. Va bene, grazie, allora appuntamento a Taranto. Grazie mille. Buon festival. Grazie. A presto, ciao. Ciao. Ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Siamo un po' di corsa e quindi non possiamo gustarci dalla... Che grande piacere per le orecchie, eh? Bellissimo. Sempre. Non possiamo gustarcelo troppo a lungo, però intanto sì, ce lo siamo già gustati, direi che è un ottimo risveglio. Come profondo il mare. come profondo il mare, ed è anche purtroppo infestato di pneumatici fuori uso. E questa non si sa bene perché, ma è una moda, evidentemente. Va di moda inquinare il mare anche così? No, sappiamo perché, perché viene usato per esempio dalle barche come salvagente, cosa di questo favorire genere. L'abordaggio è perfetto. Favorire l'abordaggio è un altro modo, che si va in piazza con uno pneumatico, lo si lancia addosso alla preda. Esatto. C'è un progetto che si chiama PFU Zero nelle isole minori ed è portato avanti da Mare Vivo Eco Tire. Ne parliamo con Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Un progetto che è meravigliosa. È meravigliosa. Credo anche molto adatta a quello che fate voi, insomma, che andate proprio a recuperare nei fondali del mare, delle isole, dei mari più belli italiani, i pneumatici che si trovano lì. Intanto grazie, perché fate una cosa straordinaria. Grazie a voi che ci state fate conoscere questa nostra iniziativa, che veramente sta avendo un grande successo, perché a parte appunto liberare i fondali e il territorio dei pneumatici fuori uso, noi facciamo anche un lavoro bellissimo con i bambini di informarli, di educazione, di gioco, insieme al nostro mascotte di Ecotar, che appunto è il nostro partner, è questo consorzio per il recupero e il riciclo dei copertoni, perché appunto questi oggetti vengono completamente riciclati e diventano un'altra cosa, servono, quindi non devono essere buttati via, e anzi diventano un valore. Tutto questo tante volte non si sa, e allora la nostra campagna ha soprattutto questo scopo di liberare i fondali alla terra, ma anche di far conoscere questa possibilità che la legge ci consente. Ma mi scusi, le volevo chiedere una cosa, che non sono giornalista, sono quello stupido, ma mi chiedo, ma come mai ci sono così tanti pneumatici? Ce lo chiedevamo anche un istante prima di chiamarla. Tanti pneumatici nel mare? Perché vengono usati come parabordi, normalmente dalle barche da pesca, nei porti, perché appunto va anche bene, perché è un modo di riciclarli, no? Certo, però non credo che, voglio dire, e ogni tanto se ne staccherà uno di pneumatico. Succede che si rompe la cima che li regge, si rompe e finiscono sott'acqua. A quel punto non si vedono più, perché il grande tappeto blu del mare nasconde tutto, però sotto rimangono, e quindi alla fine si accumulano negli anni. Quindi è una forma anche un po' di incuria da parte di chi gestisce le barche, insomma, questo si può dire. Diciamo che fino adesso non si è preso molto in considerazione il valore del mare, quindi è questo che fa sì che la gente non si renda conto che... Stupefacente però che quello che lei ha detto, che non si è ancora preso in considerazione sul serio il valore del mare, stupefacente, perché... Non lo so, forse è una questione generazionale, ma credo che i giovani di oggi... No, io, se mi consente, volevo mandare un messaggio, che da 30 anni, perché da 30 anni lavoro per Mare Vivo, certo. Ecco, 30 anni che è nato, che il messaggio molto forte è questo: il mare è il polmone blu della Terra, col suo 71% di superficie del pianeta Terra, produce l'80% di ossigeno e assorbe un terzo della nitrite carbonica, quindi senza il mare non c'è la possibilità dell'uomo che possa vivere su questo pianeta. Tutto questo ruolo lo esercita non perché sono acque salate, ma perché è un organismo vivo fatto di animali e vegetali che in combinazione e in equilibrio tra di loro fanno sì che il mare possa... Giusto. Rosalba, un'altra domanda, due, sì, velocissimamente. Intanto, quanti pneumatici per ora avete recuperato? Ma soltanto nelle isole dei minori 1700 pezzi raccolti a mare sott'acqua, 13.000 chilogrammi, e nelle isole Eolie abbiamo fatto un bellissimo lavoro, perché è stata una settimana intera, ogni giorno in un'isola diversa, incontrando bambini, amministratori, isolani, insomma è stata una cosa, ecco, meravigliosa. Poi già che ci siete, insomma, qual è lo stato un po' di salute di questi mari che andate visitando? Quasi mi viene più da fidarmi di lei che delle bandiere blu che ci sono. Bandiere blu, riguardano un altro aspetto, cioè dei servizi, ecco, dei servizi che vengono dati. No, il mare non sta bene, devo dire la verità, perché abbiamo pescato troppo, perché riversiamo nel mare qualsiasi tipo di veleno, dai veleni chimici a quelli batteriologici, quindi il mare ha sopportato. Adesso bisogna far qualcosa per migliorare lo stato di salute del mare, ed esiste una meravigliosa possibilità, anche una direttiva europea che si chiama Marine Strategy, sulla quale partiamo con un'altra campagna, siamo partiti con un'altra campagna, è proprio quello di capire il buono stato di salute del mare, che vuol dire la sua vita biologica, quindi gli animali, i vegetali, la trasparenza delle acque, le praterie di Posidonia, cioè vuol dire tante cose, non soltanto acqua pulita. E allora è su tutto questo che stiamo lavorando. Sulle isole minori, insieme a Ecotire, stiamo facendo questa grande questi incontri, che siamo partiti da Ponza, poi la Maddalena, Ischia, la Settimana delle Olie, Isola del Giglio l'altro giorno, Tremiti il 26 e chiudiamo a Capri il 30 giugno. Quindi abbiamo toccato molte regioni d'Italia, dal Lazio, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, la Puglia, la Campania, cioè dappertutto, proprio per lanciare questo messaggio che il mare è il nostro polmone blu della terra, che senza il mare non possiamo vivere. Quindi questa attività che facciamo sui pneumatici è solo una parte di quello che bisogna prendere la coscienza di che cosa vuol dire il mare per il nostro Noi vi ringraziamo ancora, io starei ad ascoltarla per ore, Rosalba Giugni, perché mi pare di vederlo il mare ripulito da questi pneumatici. Bello, e poi è bello vederlo appunto come ecosistema, sì. Normale, che se noi peschiamo troppo, togliamo i pesci e in cambio ci buttiamo dentro gli pneumatici, a quel punto si rovina. È proprio la cosa giusta, noi non dobbiamo pensare di togliere la vita e mettere la morte. Esattamente, giusto. Grazie mille. Ancora allora per quello che fate, teneteci aggiornati con le vostre iniziative, presidente di Mare Vivo Rosalba Giugni, grazie ancora. Ma grazie a voi, grazie. Vabbè, abbiamo detto grazie credo 25 volte, però beh, ci sta. È giusto, un ringraziamento. Ci fermiamo però per il traffico, torniamo tra un attimo. Scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, torniamo un po' agli ascoltatori che stiamo un po' trascurando fino ad oggi. Gianluca da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. La ringrazio per questa opportunità che mi viene data di parlare. Volevo riallacciarmi un attimo a quel discorso del ristorante sulla Terra dei Fuochi. Volevo dire, a mio modesto parere, che è un'iniziativa molto lodevole, in quanto è giusto rinfondere un pochino di fiducia nella nostra società, con tutto quello che si sente, dagli scandali, insomma, Mose, Venezia e quant'altro. E mi volevo solo apportare un piccolo suggerimento. Magari si può anche fare un po' di pubblicità reclamizzando questi ristoranti della Terra dei Fuochi in degli smart box, che vanno tanto di moda. Giusto. Bello, ci sembra una telefonata molto positiva che a noi, visto che ci chiamiamo Si Può Fare, ci piacciono molto. Se ci sono all'ascolto i nostri amici di EcoTube, che tra l'altro hanno anche sponsorizzato il premio del gioco Inviati Cercasi, loro che vanno a caccia proprio di realtà di questo tipo, sostenibili, secondo me la prendono in parola. Grazie Gianluca. Grazie mille, buona giornata. Ottima idea, ottima iniziativa. Oggi ascoltatori un po' trascurati, magari se vediamo se in coda riusciamo a sentire ancora qualcuno. Adesso vogliamo invece parlare di un'altra iniziativa, un'iniziativa che è anche un bando, dove alla fine si vincono anche dei soldini però per realizzare un progetto. Quindi amici, state all'ascolto. Nati per proteggere, AXA dà voce alle piccole e grandi storie di protezione di tutti i giorni. Potete andare sul sito natiperproteggere.it, raccontare la vostra storia di protezione a cui volete far conoscere. Le storie più belle, 8, diventeranno video storie, una sarà selezionata e vincerà 50.000 euro per proprio costruire questo progetto però, di protezione. 50.000 euro non sono pochi, sono bruscolini. Ne parliamo con Enrico Cavallari, direttore marketing di AXA Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io l'ho detta così, diciamo, ci sono anche delle pubblicità in giro, anche se non fanno riferimento al contest. Ci spieghi lei questo contest, a chi è mirato, chi può partecipare, chi si senta, come dire, che deve essere coinvolto, insomma. Sì, sì, sì. Ma innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per lo spazio e anche complimenti per la trasmissione che ascolto molto spesso ed è una bella trasmissione. Dunque, grazie. Nati per proteggere è un progetto di AXA. AXA è il primo brand assicurativo al mondo ed è un progetto che valorizza e dà voce al tema della protezione. Perché protezione? Beh, protezione perché per noi è un po' la missione di AXA, ma soprattutto in generale perché crediamo sia un valore nobile e non sufficientemente considerato e valorizzato, soprattutto oggi quando si parla molto di cattive notizie, di cose che non funzionano e si dà poco spazio magari a chi invece si impegna dietro le quinte, non pubblicamente, e che lavora proprio attorno anche alla protezione. Quindi il nostro progetto, che chiaramente si ispira, come voi dicevate, alla nostra campagna pubblicitaria, adesso AXA è anche on air, sta facendo pubblicità sulla protezione, però il progetto vuole andare oltre, vuole proprio premiare chi si impegna in questo campo. Quindi stiamo raccogliendo sul nostro sito natiperproteggere.it storie di protezione, storie che possono essere esemplari. Chiunque desideri partecipare potrà candidare la sua storia di protezione. Ecco, ci può fare qualche esempio, Cavallari? Perché è bello il concetto di protezione, che è poi il concetto da cui nascono tutte le assicurazioni, con le quali spesso abbiamo rapporti non felicissimi, perché dispiace pagare le polizze, no? Perché è sempre un momento critico, però poi magari quando c'è bisogno vengono in soccorso, non sempre con risultati anche qua straordinari. Però al di là di questo, che tipo di storie si sono già candidate, per esempio, sul vostro sito, per capire? Ma sono storie di singoli cittadini o di organizzazioni e istituzioni, quindi sono storie di persone che sono impegnate nel volontariato, che magari danno a disposizione il loro impegno per la Croce Rossa o per le mense, oppure organizzano determinate momenti di relax o di così di coinvolgimento per gli extracomunitari. Quindi sono storie di protezione abbastanza generali che noi accogliamo sul nostro sito, che vi invito poi ad andare a vedere, natiperproteggere.it, e che a quel punto diventano patrimonio di tutti. Una volta diventate patrimonio di tutti e quindi avendo il loro spazio sul nostro sito, le 8 storie che una giuria riterrà più esemplari diventeranno video storie, e quindi ci sarà una troupe che si mette in contatto con chi verrà selezionato e realizzerà un piccolo video che di nuovo verrà postato sul nostro sito. A questo punto diventa un concorso pubblico, quindi chiunque potrà andare a votare la più esemplare storia di protezione e chi raccoglierà più voti vincerà un premio di 50.000 euro che sarà destinato in opere, attività socialmente utili, che più o meno avranno sempre come fil rouge la protezione. E può essere anche, come dire, un nucleo di investimento per magari una piccola startup nel campo dell'innovazione sociale e della protezione, certo. E quindi noi speriamo, immaginiamo che nella testa di alcuni ascoltatori adesso si stiano accendendo delle lampadine e che si scateneranno poi per partecipare a questo gioco, contest. A questo contest. Io ringrazio Enrico Cavallari di AXA Italia. Sì. L'unica cosa è magari sul discorso delle storie, devono essere storie che aiutano e supportano il prossimo anche fisicamente, creano con il proprio impegno attraverso progetti specifici opportunità di sostegno e miglioramento alla quotidianità e la vita degli altri, lavorano come professionisti in associazioni che si propongono come obiettivo principale. Non so cosa succede in regia, mi scusi. però ecco, le abbiamo messo della musica sotto per non so che cosa è successo. Sì, era un problema, un'interferenza. Mi scusi, Cavallari, stava dicendo. No, prego. Dicevo, quindi anche storie possono salvaguardare il proprio territorio, difendere le risorse ambientali, quindi tutto quello che è attorno alla protezione. È chiaro che deve essere poi collegato anche a un progetto futuro che ancora continuerà a investire in quella direzione, su cui AXA noi ci impegniamo con un finanziamento in certo strumenti e attività che saranno erogati. Fatto bene a ricordare i contorni dell'idea che bisogna mandare su natiperproteggere.it. Grazie a Enrico Cavallari, buona grazie giornata, mille, buon sabato. Grazie a tutti voi. Abbiamo ancora un minutino, che facciamo? Ce l'abbiamo un minuto e mezzo? Sì, uno. Allora, velocissimo, Roberto da Brindisi, però davvero veloce. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Prima il discorso per quanto riguarda i pneumatici. E, qualche tempo fa, leggendo su una rivista scientifica, proponevano invece l'utilizzo dei pneumatici per il ripopolamento dei mari a causa della pesca a strascico che procura parecchi danni. Come? In che senso? E utilizzare i pneumatici per creare proprio l'ambiente idoneo per il ripopolamento. Sì, ma tipo delle isole galleggianti, però è una cosa un po' diversa. No, i pneumatici vanno in profondità, quindi sì, utilizzare proprio i blocchi, creare tipo barriere coralline, no? E poi su quelle aree crescono sia la fauna che la flora. Non me ne intendo, ma direi che da quello che abbiamo capito oggi, gli pneumatici dentro nel mare invece fanno molto male. No, più che altro quello che dice l'ascoltatore è anche possibile, però deve essere frutto di un progetto, non del caso, non pneumatici buttati lì così a cavolo. Dobbiamo chiudere il momento dei saluti e ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca, pure autore di questo programma, nonché redattore, Niccolò Rossoni, oggi in assistenza in redazione, Biscaltriti regia. Ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buon Pride a tutti. Ciao.